Mi è venuto in mente 2 o 3 giorni fa che una delle poche decisioni politiche del compianto Bettino Craxi su cui mi ero trovato a suo tempo d'accordo era stata quella di abolire la festa della Repubblica. La motivazione del provvedimento non era ideologicamente ineccepibile, risalendo in ultima analisi alla volontà di aumentare la produttività togliendo di mezzo, insieme a quella del 2 giugno, un certo numero di festività infrasettimanali, cioè di far lavorare la gente di più. E non si trattava neanche di un'abolizione vera e propria, stricto senso, perché la ricorrenza veniva semplicemente spostata alla prima domenica del mese. Ma insomma, si sa che in Italia non c'è festa senza vacanza e senza ponte, e l'idea non era stata priva di effetti benefici. La produttività non ne aveva tratto particolare incremento, ma i cittadini erano state risparmiate per qualche anno le alluvioni di retorica con cui le autorità sentivano il dovere di rievocare l'evento. Personalmente trovavo i messaggi presidenziali pronunciati per l'occasione ancora più fastidiosi delle parate militari con cui ci si ostinava a celebrare quella ricorrenza civile. Non era tanto soltanto una questione di preferenze e capacità personali, è la natura stessa della ricorrenza, la necessità di riproporre sotto un segno in qualche modo unitario il ricordo di una divisione, perché il 2 giugno del 1946 l'Italia si era divisa in due parti disuguali, ma neanche tanto, imponevano il ricorso a discorsi quanto più possibili vuoti. Non ricordo che alcun capo dello Stato abbia mai colto l'occasione della festa della Repubblica per denunciare le colpe della monarchia di chi l'aveva rappresentata e continuava a rappresentarla, che sarebbe stato l'unico modo di onorare una scelta che in fondo aveva avuto il preciso obiettivo di capovolgere l'assetto politico del Paese. Del 2 giugno invece si è sempre preferito parlare come se non segnasse una frattura ma incarnasse una continuità. E converrete anche voi che per raggiungere quel risultato di retorica ne serviva parecchia. Ne serviva e ne serve. Perché anche se la rivalutazione di Craxi, la beatificazione di Craxi, anzi, e procede a ritmo accelerato, quella festività è stata reintrodotta e la relativa retorica anche. Quest'anno il presidente Ciampi ci ha dato dentro parecchio. Ha sorvolato anche lui sulla storia, da cui ben poco di buono avrebbe potuto ricavare, e si è concentrato molto sulla riscoperta dell'identità e sul sentimento nazionale maturo, basato sulla consapevolezza e sull'orgoglio di essere italiani, niente meno. Ha esaltato la Costituzione, nobile frutto di quella stagione di straordinaria rinascita che prese le mosse dalla guerra di liberazione, tacendo per cortesia sui progetti che su quel pregevole documento al governo in carica, e ha esaltato l'Europa cercando di esorcizzare l'esito del referendum in Francia e l'incombere di quello in Olanda con il principio per cui dopo ogni battuta d'arresto c'è sempre un rilancio, che non si capisce bene se sia più una banalità o una speranza, ma non è certo un'analisi. D'altronde le analisi non sono indicate per le occasioni del genere. Una celebrazione retorica è sempre una celebrazione retorica e comporta d'obbligo un certo grado di prevedibilità. Una cosa però sarebbe stata difficile da prevedere ed è l'elenco dei mali che incombono oggi come oggi sulla comunità nazionale. Quelli contro i quali il Presidente, con il tono paterno che gli è proprio, ha invitato i cittadini, in particolar modo i giovani, a reagire. Uno è il torpore. Il torpore che si è largamente diffuso e che bisogna ovviamente scuoterci da dosso. E fin qui passi, anche se quella del torpore come categoria politica non è particolarmente accreditata e se si tratta come probabile di una metafora per alludere alla recessione economica e al disincanto politico, che però non sono cose che si possono eliminare con uno scatto di buona volontà. Ma l'altro pericolo da cui bisogna guardarsi, secondo Ciampi, sono le sottili dispute che consumano la vita quotidiana. E seguire questa logica si fa davvero più difficile di quanto non sembri. Perché naturalmente anche quello delle dispute sottili che consumano la vita quotidiana distruggendo la gente dai problemi concreti è un rispettabile argomento retorico. Si sa che mentre a Roma i buoni discutevano, Sagunto cadeva in mano ai cartaginesi cattivi. E i turchi? I turchi notoriamente hanno preso Costantinopoli perché i bizantini, invece di occuparsi dell'assedio delle altre necessità militari, passavano il loro tempo a discutere del sesso degli angeli. Ma a parte il fatto che ciascuno, turchi o non turchi, dovrebbe essere libero di occuparsi di quello che vuole, quello che non si riesce a capire è in che cosa mai possa consistere la sottigliezza delle dispute che affliggerebbero il nostro paese. Così a guardarsi intorno, non so voi, ma io di sottigliezza ne vedo pochina, eh? Non c'è niente di sottile nelle argomentazioni media di Berlusconi, per cui tutto andrebbe bene se non ci fossero i comunisti, o nella brutalità con cui Papa e Vescovi sono saltati a pie pari nel piatto della politica laica, o nella volontà degli imprenditori di arraffare l'arraffabile stop, o nell'ostinazione con cui i leader del centro-sinistra cercano la faccia dei loro elettori di farsi la festa l'un l'altro. È difficile trovare delle raffinatezze bizantine o d'altro tipo nella pretesa di mantenere in un paese in guerra delle truppe in missione di pace, e con il risultato un po' tragicomico di non poter neanche concedere una medaglia alla memoria dei caduti, o nell'arrembaggio preelettorale ai vertici televisivi. La classe dirigente italiana, diciamocelo, ha rinunciato da un pezzo alle rifinitezze formali, opera con una sorta di grossolana brutalità che avrebbe suscitato qualche commento perplesso persino alla corte di Attila. E allora mi chiederete a cosa diavolo avrà inteso alludere il presidente con quell'espressione. Boh, chiedetelo a lui. Io, se mi è concessa un'ipotesi, ho il sospetto che nel suo pensiero l'aggettivo sottile fosse puramente pleonastico e prudenziale, e che ciò da cui si intendeva raccomandare di guardarsi fossero semplicemente le dispute, come a dire che per uscire dai guai in cui ci troviamo bisogna essere uniti. In linguaggio celebrativo si dice, virgolette, che è necessario affrontare, confrontandoci, problemi veri con la volontà di arrivare a soluzioni condivise e tradurle in atti concreti, chiuse le virgolette. Ma uniti tutti, proprio tutti, destra, sinistra, ricchi, poveri, lavoratori salariati e speculatori finanziari, perché tanto siamo italiani e la festa della Repubblica in realtà è la festa della patria, un po' come nel consiglio d'amministrazione della RAI, no? In cui c'è posto per tutti, presidente può essere persino uno di rifondazione, a patto che poi a comandare sia un altro. Che siamo tutti italiani è un argomento di solida antica tradizione anch'esso, ma continuo a considerarlo singolarmente inappropriato. In fondo, se questo modo di pensare avesse prevalso 59 anni fa, a Quirinale ci sarebbero ancora i Savoia e, se non altro, non avremmo niente da festeggiare. Che sono sfoggiati?